nella storia, in un mare in tempesta, fragili eroi riflettono se stessi in uno specchio d'acqua confuso, in un mare in tempesta, il riflesso di barche nel vento, il cuore si strazia, moltiplicato, riflessi in lamento, riflessi in lamento. Disperato il cuore non trova più l'appiglio, la solitudine che taglia dentro. Rimane confuso soltanto il tuo nome, che si moltiplica, si sfalda in solitario cuore. Nel cuore dell'amore non c'è più niente, soltanto un nome latente, cancellato per sempre, lontano nella memoria non ci trovo più niente, eppure per sempre, questo cuore per sempre. Vago, vago nel nulla, come dal nulla ritorno. Distruzione del mito che mi sembra di cogliere intorno. Io sono il mito, padiglio di un leone, stanco di ruggire, ma ruggisco ancora con tutte le mie forze che rimangono esausto. Mi perdo nel vento del mio specchio distrutto, miriadi di pezzi di specchio distrutto, angosce che rimangono dentro. Siamo eroi, epigoni nella storia, in un mare in tempesta, fragili eroi riflettono se stessi in uno specchio d'acqua confuso, in un mare in tempesta, il riflesso di barche nel vento, il cuore si strazia, moltiplicato, riflessi in lamento, riflessi in lamento.